Bibbia Martini, primo libro delle cronache, 1 CR, una genealogia da Adamo fino ad Abramo. Generazioni dei figliuoli d'Abramo, e insieme dei figliuoli, e discendenti di Esaù, e dei re, e duci del paese di Edom prima che fossero tra i figlinoli di Israele, Adam, Set, Enos Cainan, Malalil, Jared, Enoch, Matusala, Lamech, Noè, Sem, Sham, e Japet. Figliuoli di Japet, Gomer, e Magog, e Madai, e Yavan, Tubal, Mosoc, Tiras. Figliuoli di Gomer, Ashenes, e Rifatn, e Togorma. Figliuoli di Yavan, Elisa, e Tarsis, Cettim, e Dodanim. Figliuoli di Sham, Chus, e Mesraim, e Fut, e Canaan. Figliuoli di Chus, Saba, e Devila, Sabata, e Regma, e Sabataca. Figliuoli di Regma, Saba, e Dadan. Chus poi generò Nemrod, questi cominciò ad essere potente sopra la terra. Mesraim generò Ludim, e Anamim, e Labim, e Neftuim, ai ed anche Fetrusim, e Casluim, da quali vennero i Filistei, e i Caftori. Canaan generò Sidone suo primogenito, e anche l'Eteo, e lo Jebuseo, e l'Amorreo, e il Gergeseo, e l'Eveo, e l'Araceo, e il Sineo, e l'Aradio, e il Samareo, e l'Amateo. Figliuoli di Sem, Elam, e Assur, e Arfaxad, e Lud, e Aram, e Stati Uniti, e Ul, e Geter, e Mosoc. Arfaxad generò Sale, il quale poi generò Eber. Nacquero ad Eber 2 figliuoli, uno ebbe nome Faleg, perché a suo tempo fu divisa la terra, il suo fratello ebbe nome Jectan. Jectan generò Ilmodad, e Salef, e Asarmot, e Yare, e Aduram, e Uzal, e Decla, e Debal, e Abimael, e Saba, ed anche Ophir, e Devila, e Jobab, tutti questi figliuoli di Jectan. Discendenti di Sem, Arfaxad, Sale, Eber, Faleg, Reu, Sarug, Nacor, Tare, Abram, questi è Abramo. Figliuoli Abramo, Isacco, e Ismaele. E questi sono i loro discendenti, Nabaiot primogenito di Ismaele, Cedar, e Adbil, e Mabsam, e Masnia, e Duma, Massa, Adad, e Tema, Getur, Nafis, Cedma. Questi sono i figliuoli di Ismaele. Figliuoli di Cetura concubina d'Abramo furono Zamram, Jeksan, Madan, Madian, Jesbok, e Sue. Figliuoli di Jeksan, Saba, e Dadan. Figliuoli di Dadan, Assurim, e Latusim, e Lumim. Figliuoli di Madian, Effa, ed Ofer, ed Enoch, e Abida, ed Elda. Tutti questi discendenti di Cetura. Abraham generò Isacco, di cui furono figliuoli Esaù, e Israel. Figliuoli di Esaù, Elifas, Rauel, Jenus, Ielon. E Core. Figliuoli di Elifas, Teman, Oma, Sefi, Gatam, Cenes, Ditamne e Beamalek. Figliuoli di Rauel, Naat, Zara, Samma, Mezza. Figliuoli di Seir, Aulotan, Sobal, Sebeon, Ana, Dison, Eser, Disan. Figliuoli di Lotan, Ori, Omam. Sorella e Lotan fu Tamna. Figliuoli di Sobal, Alian, e Manat, e Debal, Sefi, e Onam. Figliuoli di Sebeon, Aia, e Ana. Figliuolo di Ana, Dison. Figliuoli di Dison, Amram, ed Ezeban, e Jetram, e Caran. Figliuoli di Eser, Balan, e Zavan, e Yakan. Figliuoli di Disan, Us, e Aram. Questi sono i regi, i quali regnarono nel paese di Edom, prima che i figliuoli di Israele avessero re, Bela figliuolo di Beor, di cui la città fu nomata Denaba. E Bela morì, e gli succedette nel regno Bobab figliuolo di Zara di Bosra. E dopo la morte di Jobab regnò in sua vece Usam, del paese di Teman. E morì anche Usam, e regnò in suo luogo Adad figliuolo di Badad, il quale sconfisse i Madianiti nella terra di Mob, la sua città fu Avit. E morto Adad, regnò in sua vece Semla di Masreca. E morì anche Semla, e regnò in suo luogo sul di Rohobot, la quale città è situata presso al gran fiume Eufrate. Morto parimente Sol, regnò in sua vece Balanan figliuolo di Acobor. E questi pure morì, e regnò in sua vece Adad Ai, la città del quale fu Fau, e la sua moglie ebbe nome Metabei figliuola di Matred, la quale era figlia di Mezaab. E dopo la morte di Adad cominciarono ad essere in Edom dei governatori in cambio dei re, governatore di Tamna, governatore di Alva, governatore di Getet, governatore di Olibama, governatore di Eia, governatore di Fmon, governatore di Cenes, governatore di Teman, governatore di Mabsar, governatore di Magdiel, governatore di Iram. Questi sono i governatori di Edom. Note 1,1-2 Adam, Set, Enos. Cainan, Eci Adam generò Set, Set generò Enos, Enos generò Cainan, e così degli altri. 1,4 Noè, Sem, Sham e Japhet. Noè generò questi tre figliuoli, Sem, Eci. La mira dello storico sacro si è di tessere la genealogia da Noè ad Abramo, come sopra avea tessuta quella da Adamo a Noè, per la qualcosa avrebbe potuto trattar sulla mente della discendenza di Sem Ai, ma siccome la stirpe ancora degli altri due figliuoli di Noè fu molto illustre, e occupò gran parte della terra, quindi parla ancora brevemente dei figliuoli di Sham e di Japhet. 1,10 Cominciò ad essere potente Eci, ovvero, fu il primo, che ebbe potenza sopra la terra. Vedi gennaio 10,9. 1,17 Figliuoli di Sem. Us e Ul. Erano nipoti di Sem, essendo figliuoli di Aram, ma nella scrittura il nome di figliuoli si prende ancor per nipoti, come si è veduto più volte, Mosoc. Egli è detto Mus, gennaio 10,23, onde avrà avuto due nomi. Egli era gnipote di Sem, essendo pur figliuolo di Aram. 1,32 Concubina di Abramo. Ho ritenuto la voce latina, benché generalmente e nel latino e nel volgare ella abbia un significato diverso da quello che dee avere in questo luogo, però che Celura era vera moglie di Abramo, ma di secondo ordine. Ella è detta moglie di lui, gennaio 25. I 1,36 di Tamma ebbe Amalek. Tamna la moglie di Elifaz di secondo ordine, e da essa egli ebbe Amalek, gennaio 36,12. 1,38 Figliuoli di Seir, Eci. Questo Seir non è Esau, ma un orreo, di cui si descrive la genealogia per far conoscere la stirpe di Tamna madre di Amalek. 1,44 Gli succedette nel regno Jobab. Molti hanno creduto che sia il celebre pazientissimo Job. Allora il regno di Dumea non era tereditario. 1,45 Del paese Eciteman, città principalissima dell'Idumea. 1,52 Di Olibama. Una delle mogli di Esau ebbe questo nome, e da lei probabilmente fu nominata quella città.